in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che come forse potete immaginare dedica l'apertura all'Assium Forex che c'è stato ieri e l'altro ieri a Brescia. È il 27° congresso degli operatori di borsa e sono stati molti gli ospiti, tra i quali il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, al quale è dedicato il titolo del Sole 24 Ore: rischio ribasso del PIL più vigilanza sul risparmio. Quindi da una parte, tra l'altro, questa previsione poi parzialmente smentita o comunque messa in dubbio dal ministro dell'economia Gualtieri, comunque il governatore della Banca d'Italia Visco dice che soprattutto per via degli scenari geopolitici, e sappiamo naturalmente di quello che sta succedendo in Cina e il rallentamento a sua volta, la previsione di rallentamento a sua volta del PIL cinese, sono le cause di questo peggioramento. Per quanto riguarda la vigilanza sul risparmio, naturalmente si è tornati sulla questione della Banca Popolare di Bari. Altro importante approfondimento sul Sole 24 Ore di oggi: l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche in Italia, confrontata con l'IRPEF, l'equivalente di questa imposta appunto sulle persone fisiche negli altri paesi europei. IRPEF da primato, aperta la caccia ai correttivi. Sapete che nei giorni scorsi si è parlato molto, per l'ennesima volta bisogna dire, della riforma del fisco e della riforma in particolare delle aliquote IRPEF. Sappiamo che tra l'altro con l'ultima finanziaria ci sono già stati importanti cambiamenti invece per quanto riguarda il cuneo fiscale, quindi le imposte che troviamo in busta paga e la differenza tra quanto costiamo, dico costiamo perché anch'io sono a reddito fisso, quindi faccio parte di questa categoria, quindi quanto costiamo al datore di lavoro e quanto poi in realtà riceviamo in busta paga. L'altro approfondimento che viene richiamato in prima pagina riguarda la Cina, sempre, che prova a ripartire, perché sapete, le ferie forzate, l'unico vero periodo di ferie per i cinesi è quello che corrisponde al capodanno cinese, che è l'inizio dell'anno lunare. La Cina ha questo altro calendario e sono state prolungate queste ferie, o domani però si torna a lavorare anche in Cina, e quindi la Cina prova a ripartire, ma il virus non rallenta, come avete sentito anche nel GR, il numero dei contagi e anche il numero dei morti. Corriere della Sera apre sulla questione, che avete sicuramente sentito, di questa circolare sulla scuola del ministro della Salute Speranza, che dà un'intervista al Corriere della Sera, e il titolo scelto è "Voli fermi non si cambia", perché c'è anche questa misura che caratterizza in particolare l'Italia, cioè continua lo stop dei voli dalla Cina, e poi la prevenzione viene prima dell'economia. Con tutte le reazioni a questa circolare, da una parte quella di Salvini, che dice in fondo era quello che avevano chiesto i governatori del Veneto, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia e della regione autonoma di Trento, tutti leghisti, cioè di appunto impedire a chi avesse fatto, agli studenti che avessero fatto dei viaggi in Cina, di andare a scuola e imporre loro una quarantena. Quella del ministro Speranza è un consiglio, quindi le proteste di Matteo Renzi da parte di leader di Italia Viva, che dice non sono le famiglie a dover decidere su questioni di salute. E poi invece anche l'opposizione degli stessi governatori del nord, che dicono è comunque un passo avanti. La fotonotizia dedicata a Sanremo: in realtà il vincitore di Sanremo, il Corriere della Sera, non ha fatto in tempo a darla. La fotonotizia è dedicata a Amadeus e Fiorello. Amadeus con quella parrucca che dovrebbe ricordare Maria De Filippi, che è stata in realtà la parrucca è stata prima indossata da Fiorello. In ogni caso, i record di Amadeus e Fiorello, si parla già di un festival bis appunto per lo stesso Amadeus. Poi vi segnalo l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che è stato direttore due volte del Corriere della Sera, ma anche del Sole 24 Ore: investire, non solo conservare, l'Italia che non cresce. Quindi un'analisi, appunto abbiamo appena detto, il governatore Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, non solo ha detto che l'Italia cresce poco, ma anzi che potrebbe crescere ancora meno, e già sappiamo siamo praticamente fanalino di coda nell'Unione Europea, e quindi ancora il tema della crescita. L'intervista, appunto, vi dicevo, al ministro della Salute Roberto Speranza, che è laureato in scienze politiche, ma gli è capitato in dote questo Ministero della Salute, in passato è stato anche deputato del PD, ora è un deputato di LeU. Questa intervista la trovate a pagina 3, sullo stop ai voli vado avanti, la salute vale più dell'economia. E a proposito di virus e di salute, il Corriere ha uno speciale Corriere Salute oggi in edicola. In copertina c'è quella foto che abbiamo imparato, credo, a conoscere del coronavirus, quello che bisogna sapere. E sono tante pagine, sono esattamente 19 pagine sul virus, ma anche un po' sulla storia di queste epidemie, quindi la diffusione, i meccanismi del contagio, la diagnosi, le strategie di prevenzione e le terapie disponibili. Gli esperti ci aiutano a fare chiarezza sull'infezione che sta mettendo paura al mondo. La Repubblica, Visco due punti, rischio virus per l'economia, quindi è un po' anche Repubblica sceglie di intitolare su questo intervento di ieri del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, con questo che viene definito un allarme. Potrebbero essere pesanti gli effetti dell'epidemia sul nostro PIL. E poi il riferimento a questa nuova circolare del Ministro della Salute per chi rientra dalla Cina, 14 giorni di assenza giustificata. Anche per Repubblica la fotonotizia è il Festival di Sanremo. Anche in questo caso Repubblica non ha fatto in tempo a certificare la vittoria di Diodato, ma comunque la data, perché evidentemente il primo verdetto delle giurie già facevano immaginare questa vittoria. Quindi al Festival di Amadeus e Fiorello il vincitore è Diodato, sul podio poi si piazzano, come avete sicuramente sentito, Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. L'editoriale sulla Repubblica, come ogni domenica, è di Eugenio Scalfari, un titolo abbastanza generico che poi trovate sviluppato a pagina 33, quei valori morali che salvano la democrazia. Con la Repubblica, come ogni domenica, in edicola all'Espresso, la copertina è dedicata a Bibbiano, quel paese dell'Emilia Romagna dove c'è l'inchiesta, ancora in corso l'inchiesta sui bambini affidati ingiustamente, tolti alle loro famiglie originali e alcuni di essi affidati ingiustamente a famiglie affidatarie. La storia sconosciuta, abusi sessuali in famiglia, bambine costrette a prostituirsi, servizi sociali che intervengono. Finita la speculazione politica, la vicenda degli affidi in Emilia rivela molti lati oscuri, finora taciuti. E poi vi cito la Gazzetta dello Sport di oggi, che ha una sorta di sovracopertina che è dedicata, come potete immaginare, al derby di stasera, un gran galà che può valere il primato, derby colossal a San Siro alle 20:45, sfida tra i giganti Lukaku dell'Inter e Ibrahimovic del Milan. L'Inter vuole vincere, sapete, in questo momento, dopo la sconfitta di ieri della Juventus con il Verona, è a 51 punti, cioè 3 punti dalla Juventus che ne ha 54 per l'aggancio in vetta. Il Milan invece non può perdere il treno per l'Europa. Abbiamo dei servizi sulla Gazzetta sul derby da pagina 4 a pagina 13. Poi è proprio una sovracoperta, perché addirittura cambia il verso del formato della Gazzetta. Comunque oggi, ma non soltanto, c'è la Gazzetta, c'è anche uno speciale del Corriere della Sera, che quindi ne ha due, uno sulla salute e uno sul derby, e Inter e Milan, la rivalità infinita della città in festa. La Stampa ha proprio certifica la vittoria di Diodato, quindi fotonotizia Sanremo dei record, Diodato trionfa davanti a Gabbani, ma anche in questo caso l'apertura è sulla decisione del Ministro della Salute con questa circolare di prevedere, per chi lo considerasse opportuno, e torniamo al fatto che non dovrebbe essere una scelta delle famiglie probabilmente, ma una scelta di un Ministro della Salute, che invece lascia libera scelta. rientro in classe, scelta ai medici. Però in questo caso la stampa ha intervistato non il ministro della salute ma il ministro dell'istruzione Azzolina. Il coronavirus non è un problema scolastico ma sanitario, ecco un altro bello scontro, diciamo, o comunque diversità di posizioni all'interno del governo, perché il ministro della salute dà questa scelta alle famiglie e il ministro dell'istruzione risponde non dovrebbe essere una scelta delle famiglie. L'intervento è l'editoriale di prima pagina, come ogni domenica, del direttore della stampa Maurizio Molinari, che si occupa del virus, ma con questo interessante punto di vista, i big data, cioè la possibilità che abbiamo, grazie all'informatica, ai nuovi computer, di raccogliere i dati e di analizzarli, perché questo vuol dire big data, quindi i big data per battere il contagio. Il Messaggero, due contagiati ripartiti da Roma, questo è un caso che si è scoperto ieri, coppia di Taiwan in giro per 10 giorni nella capitale, oggi ci sarà il rientro di 8 studenti italiani, ma resta in Cina, la notizia naturalmente la trovate anche su altri giornali, il 17enne e il ministro Di Maio ha deciso appunto di mobilitare l'aeronautica. Scuola, quarantena solo suggerita, questa è un'ottima sintesi, i presidi che rispondono non basta, anche in questo caso fotonotizia dedicata a Sanremo, Diodato in testa nella notte, appunto poi sapete che oltre a essere stato in testa ha vinto, polemica sui dirigenti di Viale Mazzini, tutti in prima fila, non so neanche perché poi sia una polemica, insomma i dirigenti di Viale Mazzini, i dirigenti della RAI, Sanremo è il più importante evento televisivo dell'anno, televisivo e non solo, quindi però il titolo è comunque Bufera Festival tra politica e imbucati RAI. Il Giorno, ve lo segnalo perché oltre anche in questo caso alla fotonotizia dedicata a Diodato che a 38 anni ha vinto questa 70esima edizione del Festival di Sanremo, ha l'apertura dedicata al virus, la scuola si affida alle famiglie e poi molti approfondimenti alle pagine, è forse il giornale che dà più spazio a questo, ma naturalmente gli aggiornamenti li trovate anche sugli altri giornali, sull'inchiesta che è stata aperta e procede sull'incidente del treno ad alta velocità, il treno che è deragliato, sapete, 2 vittime, i macchinisti, alcuni feriti non gravi, ma soprattutto si cerca di capire che cosa sia successo. Alta velocità, tra l'altro, resta bloccata quella tratta, perché finché non saranno rimossi i vagoni, la motrice deragliata e i vagoni, non si potrà riutilizzare il binario, quindi alta velocità fuori uso per lo schianto, l'Italia torna indietro di 10 anni e poi errori e caos, i misteri della tragedia e ancora altre 2 pagine, la 4 e la 5, tragica ipotesi, un contatto invertito sullo scambio e poi anche la questione comunque di tutti gli altri possibili fonti di rischio, Pioltello, traversine rotte, RFI che è la parte del gruppo FS che gestisce la rete ferroviaria dice stiamo tutti tranquilli, ma ci sono anche i comitati dei pendolari, perché non, naturalmente come sappiamo c'è questa dualità in Italia tra il sistema dell'alta velocità e quello invece non ad alta velocità utilizzato soprattutto dai pendolari e quindi per esempio i pendolari lodigiani che ancora una volta fanno sentire la loro voce, perché sapete mentre negli anni scorsi si è puntato molto sull'alta velocità le tratte diciamo minori devono essere assolutamente, il processo è in atto, devono essere ammodernate anche perché continuano a esserci gravi ritardi e disagi per appunto chi usa il treno per andare a lavorare, i cosiddetti pendolari. E a proposito di tratte, ma in questo caso non ferroviarie ma tratte degli schiavi, è l'apertura di Avvenire, la tratta è ignorata nel mondo, 45 milioni di persone comprate e vendute, oggi ci sarà una marcia in piazza San Pietro, tante le storie di riscatto con l'aiuto delle associazioni. Noi ci fermiamo un attimo, sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, ci mancavano ancora alcune prime pagine, vi segnalo quella del Giornale che torna sul caso Gregoretti, la nave della Guardia di Finanza Per la quale il Tribunale dei Ministri ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Salvini. Caso Gregoretti, la verità di Salvini, le prove dell'ex ministro che smentiscono Conte. Sapete che su questa questione Conte e altri ministri sostengono sia stata una decisione unicamente di Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno. Matteo Salvini sostiene che anche quella, come il caso della nave precedente per la quale fu negata l'autorizzazione appunto di rinvio a giudizio al Tribunale dei Ministri, in quel caso la decisione fu collegiale. Questa è la linea di Conte che ora Salvini contesta. Anche in questo caso c'è la notizia, la fotonotizia della vincita di Diodato al vincitore di Sanremo, e poi vengono anche ricordati, io non li ho visti e non ho alcuna intenzione di vederli, i morsi e sputi tra Morgan e Bugo. La verità, c'è una caricatura di Salvini su sfondo verde, un verde chiaro, non il verde Lega. Processano Salvini per perdere. I signorini della sinistra lo trattano da mostro. Un articolo di Pietro Senaldi, perfino il progressista New York Times condanna il PD. Portare alla sbarra Matteo è un autogol. In prima pagina anche la questione del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il suo intervento ieri a Brescia, Banca Italia, i conti del governo sono sballati. E poi sull'inchiesta in corso sul deragliamento del treno ad alta velocità interviene invece Vittorio Feltri: il disastro del treno veloce non è tutta colpa degli operai. La prima pagina della verità, del Fatto Quotidiano, invece torna su una notizia data due giorni fa dal boss mafioso, in parte potremmo dire pentito, Graviano, che aveva riferito di aver avuto degli incontri con Berlusconi ancora prima della scelta di Berlusconi di candidarsi, come di fondare il suo partito Forza Italia e di candidarsi a guidare l'Italia, quindi prima del 94. Berlusconi e Graviano chi? TG e giornali nascondono la notizia. Questa è l'accusa del Fatto Quotidiano. La verità, il Conte bis è un esecutivo balneare. Sapete che venivano definiti così i governi del passato, quando le decisioni venivano prese lontano da Roma, ma magari mentre si era in vacanza. Qui però il riferimento è diverso. Renzi si fa la piscina, Grillo non la dichiara. Il bullo chiede e ottiene in tempi fulminei un'autorizzazione per godersi i tuffi in giardino a Firenze. Finalmente ha un immobile all'altezza di quello genovese del comico che ha disguidi col fisco. Inchiesta di Giacomo Amadori. La fotonotizia però è dedicata a Emmanuel Macron, consegna l'atomica alla Merkel, con un articolo poi a pagina 14 di Carlo Pelanda su questi rapporti tra i due premier forti in questo momento dell'Europa, dopo l'uscita del Regno Unito, quindi Emmanuel Macron per la Francia, Angela Merkel per la Germania. Il Manifesto invece dedica l'apertura a una notizia che trovate anche sugli altri giornali, non con questa evidenza: la piramide del terrore. Il riferimento è a Patrick Zaki, studente egiziano a Bologna, arrestato e torturato al rientro in Egitto, dove pendeva un mandato di cattura, diciamo, a sua insaputa, e che quindi quando lui è tornato in Egitto per far visita a familiari ed amici è stato arrestato e pare torturato. Attivista dei diritti umani, è accusato di istigazione al golpe. Gli universitari, i suoi compagni universitari di Bologna, liberatelo. Come lui, migliaia di egiziani fatti sparire da servizio e procura, autori anche del depistaggio sull'omicidio di Giulio Regeni. E poi, sempre in prima pagina, e anche in questo caso il Manifesto è il quotidiano che dà più spazio a questa notizia, a San Daniele del Friuli è stata disegnata una svastica sulla casa di una donna che era stata deportata ad Auschwitz nel 1944. Ma è veramente una notizia, tra l'altro viene dopo naturalmente i dati che abbiamo avuto nelle scorse settimane, con le percentuali incredibili di italiani che o credono che la Shoah sia proprio una bufala, o credono che in realtà il numero delle vittime di ebrei uccisi nella Shoah, assassinati durante la Shoah, ai quali peraltro si aggiungono anche i numeri dei Rom, degli omosessuali, quindi c'è anche appunto tutte queste minoranze che furono assassinate dal regime nazista, e c'è anche una percentuale di italiani che poi si traduce in circa 700.000 italiani che non credono a queste cifre, ma pensano che siano molto minori. Quindi sapere appunto che poi vengono disegnate svastiche ancora oggi conferma evidentemente che questi dati riflettono questo umore che c'è in questo momento, no, anzi è la parola sbagliata, questo dato appunto che ci sono molti italiani che o non credono alla Shoah o pensano che il numero delle vittime andrebbe ridimensionato, e quindi, perché no, si può disegnare una svastica su una porta di una... sulla porta della casa che, dove visse una deportata ad Auschwitz. Andiamo alle pagine interne e torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo a pagina 7 gli approfondimenti sulla Cina del Sole 24 Ore, quindi quello di Antonella Scott. La Cina torna domani al lavoro ma rischia una falsa partenza, perché comunque si riapre ma con molti rallentamenti. Tesla, per esempio, le fabbriche di Tesla in Cina riaprono, resta ferma la Volkswagen e ci sono tante altre aziende che comunque resteranno chiuse anche potendo riaprire. Poi naturalmente la notizia delle nuove regole a scuola per alunni dalla Cina, questa assenza giustificata, l'analisi di Stefano Carrer, la sfida più pericolosa per Xi Jinping, leader del popolo. E abbiamo parlato appunto di questa riflessione che fanno molti osservatori sulla Cina, che appunto su questa vicenda, su come la Cina sta reagendo, sulla nuova trasparenza, e anche vedremo adesso con la ripresa delle attività, si gioca appunto, è un vero test per la Cina, ma naturalmente anche per il suo presidente Xi Jinping. L'impatto sui trasporti, questo ne dà conto Alberto Grassani, tracolla la domanda di voli aerei per l'Asia, una flessione, pensate, di oltre il 20%, che dà, in un regime di deregulation dei voli, i primi effetti sui prezzi. Milano-Tokyo ora costa 490 euro. Come sempre, la domenica sul Sole 24 Ore, della pagina dedicata a economia e imprese, a sport e business. Questa settimana un focus di Marco Bellinazzo sulla pallacanestro, rivoluzione in Serie A, boom di incassi e spettatori. Alla vigilia delle finali di Coppa Italia, la Lega Basket lavora al rinnovo di presidente e modello di governance. Nonostante i risultati positivi della gestione di Egidio Bianchi sul fronte di ricavi televisivi, botteghino e sponsor. E poi, visto che si parla di pallacanestro, sempre un approfondimento sulla morte di Kobe Bryant, morto 2 settimane fa, ricorderete, nello schianto del suo elicottero insieme alla figlia Gianna e ad altre 7 persone, l'All Star Game di Chicago nel ricordo di Kobe Bryant e di Gianna. La sezione Lifestyle, anche questa la domenica all'interno del Sole 24 Ore, copertina di Federico De Cesare Viola dedicato al cioccolato, anche con l'occasione di San Valentino, in cui sicuramente una festa, la cosiddetta festa degli innamorati, in cui viene regalato molto cioccolato. La classica scorpacciata per amor di cioccolato. La ricorrenza permette a tutti, innamorati e non, di sbizzarrirsi tra praline, tartufi, cremine e lollipop. E poi invece un approfondimento nella seconda pagina del supplemento Lifestyle su Cipro. Enrico Marro ci racconta: tra sacro e profano, a Cipro ogni stagione è circondata dal blu. E invece nella parte dedicata al design, questo credo molto interessante per tutti quelli che insomma mal sopportano i rumori di ogni genere, intimità e comfort a prova di orecchio. Il design di interni spesso trascura un aspetto fondamentale per la vivibilità della casa. Senza una buona acustica gli ambienti diventano poco ospitali. Oltre al fatto appunto di costruire le case con una buona acustica, ci sono anche alcuni spunti invece per chi vuole comunque isolare la propria casa dai rumori. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento sulle crociere, prendendo spunto dal fatto dalla nave che in questo momento è in quarantena, le crociere verso il nulla, turisti confinati a bordo delle navi che di recente hanno fatto scalo in Cina, molti viaggi sospesi, sono anche naturalmente previsti dei rimborsi. Altro approfondimento da Giuseppe Sarcina inviato a Washington sulla le prime mosse di Trump dopo l'assoluzione dall'impeachment che però sapete ha poi subito licenziato le persone che erano state chiamate a testimoniare alla Camera dei Deputati. Sapete che in Senato non c'è stata la possibilità, bocciata dalla maggioranza del Senato che è repubblicana, di chiamare testimoni. Arriva subito la vendetta di Donald, silurati due testimoni. Dopo l'impeachment la Casa Bianca licenzia l'ambasciatore Gordon Sondland e il tenente colonnello Alexander Vietnam, che faceva parte del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che definì la telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino scorretta. Noi ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici naturalmente. Primo perché magari ci stanno già ascoltando e poi anche a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, SMS sempre meno. Io sono una fedelissima degli SMS e naturalmente invece anche WhatsApp. E dalle pagine del Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento sulle elezioni in Irlanda, non ci sono ancora i risultati definitivi, ci sono però gli exit poll, l'avete sentito anche nel GR, il corrispondente Luigi Ippolito dal Regno Unito a pagina 13 del Corriere della Sera racconta Dublino, la scossa dello Sinn Féin, Irlande più unite nel dopo Brexit. Sapete che la proposta dello Sinn Féin, che finora che è sempre stato diciamo l'espressione politica dell'IRA, ora l'IRA non c'è più, l'esercito repubblicano armato, e sapete che si spera definitivamente chiusa la pagina del terrorismo in Irlanda, e però le due Irlande restano divise. Lo Sinn Féin ha addirittura pensato di proporre un referendum nel 2025 per riunificare le due Irlande, il che vorrebbe dire un ulteriore rischio per il Regno Unito guidato da Boris Johnson, che sapete dovrà presto anche fare i conti con la richiesta che viene sempre più forte dalla Scozia di un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia. La Scozia aveva già votato per questo referendum, ma prima che fosse decisa la Brexit, quindi prima del giugno 2016, e ora si chiede un nuovo referendum alla luce della Brexit. Ma per quanto riguarda l'Irlanda, gli eredi dell'IRA alla pari con i partiti tradizionali che sono il Fine Gael e il Fianna Fáil, la spinta per il referendum appunto in Ulster. Un altro approfondimento invece da Repubblica sull'India. Raimondo Bultrini ci racconta Arvind, l'uomo qualunque che per la prima volta mina l'impero del premier Modi. Ieri a Nuova Delhi si sono tenute le elezioni per rinnovare il governo dell'unione territoriale. I risultati definitivi non arriveranno oggi, dovrebbero arrivare l'11 febbraio, ma anche qui, secondo l'exit poll, il 51enne Arvind Kejriwal, leader dell'AAP, partito dell'uomo qualunque, testualmente in indiano si dice Aam Aadmi Party, e laureato in ingegneria meccanica, dovrebbe essere rieletto per la terza volta come capo ministro di Delhi. Molto interessante, poi passiamo ai supplementi in questi pochi minuti che ci rimangono, molto interessante l'approfondimento che trovate a pagina 15 della Stampa. Montagne senza neve, crolla il turismo, stazione moribonde sotto i 1500 metri. E questo naturalmente è uno dei tanti aspetti dell'emergenza climatica, cambiamento climatico, anche se come sapete ci sono ancora molte persone che lo negano. Il principe dei negazionisti resta Donald Trump, che continua a pensare che in realtà il cambiamento climatico non sia in atto. Il supplemento domenicale del Sole 24 Ore, la domenica, come sempre, iniziamo da qui, iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Nullità, e la citazione è questa: ho conosciuto un uomo che era una nullità, però molti altri valevano il doppio. Scrive Ravasi: mi è rimasto impresso nella memoria un asserto che Riccardo Bacchelli mi affidò dopo un incontro nella sua casa milanese, credo nel 1978. Avevo da poco pubblicato un commento esegetico a Giobbe. Anch'egli aveva dedicato a quel libro biblico nel 1966 un romanzo, Il coccio di terracotta. Salutandomi mi disse: «Si ricordi di una cosa, gli stupidi impressionano non fosse altro che per il numero». Il concetto inequivocabile e invincibile è ribadito in uno degli aforismi del 1996 della poetessa Maria Luisi Spaziani che ho sopra citato. Con questa battuta la sua arguzia riesce a colpire, ma non certo a fronteggiare, la trionfale gara alla banalità che ora gode del sostegno efficace dei social. È un esercizio a cui si votano giovani e vecchi, in cui eccellono i politici che sono circondati da folle di imitatori. Stupido giustamente deriva da stupire, perché si rimane attoniti e persino ammirati di fronte al crescendo di questa genialità inversa e perversa. E purtroppo dobbiamo riconoscere che qualche schizzo di tale fanghiglia infetta ormai un po' tutti. La copertina vera e propria però è di Laura Leonelli, che racconta gli uomini che fecero la storia con la maiuscola. Si fa riferimento naturalmente alla storia, al Waldorf Astoria di New York, costruito, aperto questo albergo nel 1931, il primo ottobre del 1931, 47 piani. Rinasce ora lo storico albergo, capolavoro dell'Art Deco, di quel periodo appunto dell'architettura e del design che va sotto il nome di Art Deco. In 90 anni ha ospitato VIP e celebrità tra cui Ford, De Gasperi e Marilyn Monroe. Una bella recensione di Carla Moreni a questo libro pubblicato da Rizzoli, Io, Maria, lettere e memorie inedite. Maria le cantava a suon di lettere. È una raccolta di 30 anni di missive della Callas, raccolte e conservate dai destinatari. La diva scrive al marito, a Onassis, alla maestra di canto, deridendo le colleghe che gorgheggiano con la bocca larga come un fornello. E poi un bellissimo ricordo di Gabriele Pedullà, di George Steiner, morto pochi giorni fa, era nato nel 1999 e Gabriele Pedullà lo definisce l'uomo della Weltliteratur, cioè la letteratura del mondo. Fu critico letterario per antonomasia, ma anche talentuoso prosatore. Dietro ai suoi libri c'è molta filosofia, ma la pagina scorre leggera. E poi, come sempre, Paolo Legrenzi, che si occupa dei comportamenti, di quello che sta dietro ai nostri comportamenti. La recensione di questa settimana è un libro di Anna Donise, pubblicato dal Mulino, che si chiama Critica della ragione empatica, il lato oscuro dell'empatia. Quindi, dal punto di vista psicologico, si accompagna spesso alle migliori intenzioni, ma non equivale a essere buoni. Pure i cattivi e i crudeli sanno mettersi nei panni degli altri e condividerne gli stati d'animo. Velocemente vi segnalo la lettura del Corriere della Sera, copertina affidata come ogni settimana a un artista. Questa settimana è Sophie Coe e le prime pagine, come sempre, sono un approfondimento, e questa settimana sostanzialmente all'intelligenza artificiale, ma bellissima intervista di Stefano Montefiori a Emmanuelle Béart, un'attrice, forse una delle donne più belle secondo me che abbiano calcato prima il cinema e ora il teatro. Emmanuelle Béart, il teatro mi ha salvata. E invece Robinson, il supplemento della Repubblica, ha una copertina dedicata a Ai Weiwei, il grande artista cinese che comunque non è ben visto in patria, oppositore del regime, quello che lui chiama il regime cinese. Nel 2011 è stato anche in prigione per 81 giorni, ora vive a Cambridge nel Regno Unito. L'antivirus, l'epidemia e altri demoni, parla Ai Weiwei, artista e dissidente cinese. E poi, come non potevo segnalarvi, oggi io me lo vado a comprare questo libro, una lunga recensione di Claudia Morgoglione, a questo titolo, Vite di gatti, a questo libro Vite di gatti straordinari, naturalmente appunto una raccolta di tutti i gatti nella letteratura, protagonista da sempre nelle fiabe, al cinema, in TV, il felino domestico affascina adulti e bambini. In occasione della giornata a lui dedicata, l'11 febbraio, un grande illustratore, Benjamin Lacombe, lo celebra in un libro. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Paolo Corleoni in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e a chi ha mandato messaggi. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.